sono le canzoni del Gypsy King. No, no, mai su Titti. E beh, su YouTube le scrivi Santa Fe, brava Reddiso. Io conosco anche a Coso, a Sandrino, è di Sassari, suona sassarese, Sandrino Tony. Ah, Sandrino, aspetta, sì, ce l'ho come amico a Sandrino anche, Tony Pilo. Ehi, Sandrino Carta. Sandrino Carta, sì. Sì, già lo conosco. Chi la fatti suonare la prima chitarra? È normale, quando uno suona ogni santo giorno, è normale che va, più va, più impara. È così. È come guidare un mezzo, lo provi oggi sei così, domani è migliore, dopo è la stessa cosa. E impari guidando ogni giorno, suonando ogni giorno. Anche io ho lasciato un bel po', sennò anche io sei stato bravino, dai. Ora già mi arrangio, dai. Un attimo, ci vuole per me. Ok. Vabbè. Luca, adesso ti mando su WhatsApp, ti mando un link, ti mando, che tu poi lo apri e ci sono tutte le radio del mondo. Ci appare una cartina geografica con tanti puntini verdi e tu ogni puntino è una cosa, una stazione radio. Adesso te lo mando, dai. Ma puoi anche ascoltare? Ascolti subito in diretta, così senza niente, non devi fare nient'altro, devi aprire il link, clicchi sul coso centrale, clicchi e ti apre questa cartina. E questa cartina ti appare il mondo intero ti appare, tutte le cose, no? È una cartina geografica, che ci sono tanti puntini verdi, ogni puntino equivale ad una stazione radio. Mi sono spiegato? Tu sintonizzi su quello, sintonizzi ad esempio Radio Venere, Radio del Golfo, e tutti quanti, tutte queste radio così, capito? Adesso te lo mando. Ma anche la 27, ce l'ho, mi manda, dai. No, la 27 è un altro discorso, poi se per quello ti do il sito dove andare per ascoltare anche la 27, adesso prima ti mando questo. Ehi. Luca, te l'ho mandato, aprilo. Luca, mi stai ascoltando? Luca, no, ma intende Renacchi. Attento, Luca Lauretti. Oggi, finito ecco il telefono. Aiuta che stavo mettendo il computer dentro la borsa, dai, che devo consegnare dopo, aspetta, controllo. Controlla, schiaccia sul mappamondo, sul cerchietto, schiaccia, tocca lì e ti si apre. Ho aperto il link e devo fare press play to star. Sì, al centro è uscito una specie di triangolo, apri lì. È uscito Cagliari, Italy. Vabbè, in quel momento guarda sotto, dove sotto c'è scritto qualcosa, una radio privata, c'è la Sardegna e c'è un cerchietto. Tu metti il dito, lo sposti il cerchietto, dove vuoi tu, ogni puntino ti dà una stazione radio. Guarda, verso la Porto Torres, metti tu il cerchietto, c'entra Porto Torres in alto, e appare Radio Venere. E sotto c'è scritto anche la stazione che trasmette. Sì, guarda, mi sono spostato Sassari. Esce, vedete? Vediamo. Cosa? Ma com'è? Sassari. Questo è Sassari. braccio, tutto è forte. Tutto il mondo, sono presente tutto il mondo, non hai visto quante puntini ci sono. Ma mette Radio Venere, il cerchietto che vedi sulla Sardegna, mettilo centrato sul puntino in alto Porto Torres, dove, non lo sai dove è Porto Torres, è la cartina, no? Con punta lo dire, ti appare Radio Venere. Sì, sì, ho visto, io ho visto, togo, Adesso se tocchi in basso a destra c'è una freccetta, tocca quella freccia e ti cambia canale. Aspetta che l'ho chiuso perché mi ha mandato un messaggio vocale, aspetta. Allora. Te lo sto dicendo, adesso tu quando vuoi cercare una stazione tu metti il dito sul cerchio, no? E lo sposti dove ti pare ti piace, però la cartina te la sposti, perché se tu passi il dito sulla cartina si apre tutto il resto del mondo, si apre, vedi, tutto, ogni puntino è una radio, anche dall'America, tanto per fare un esempio, dappertutto insomma. Tirana. Bucarest. Togo, cavolo. Togo. Sì. E dove l'hai scoperto? Qua c'è per la 27. Questo qui è una cosa, vabbè, diciamo che me l'ha dato mia figlia, me l'ha scoperto, e a me me l'ha passato, e adesso io ho passato, l'avevo già mandato a Roberto, l'avevo mandato tempo fa, ma a nessun altro, adesso l'ho mandato a te, adesso ce l'hai, tu e Roberto e basta, non ce l'ha altro nessuno. E stavo dicendo, in questo momento sto ascoltando dalla Corsica, Radio Calvi, che puoi immaginare, sto ascoltando in questo momento, mi aspetta che ho messo il volume e te lo faccio sentire. Sì, invece per quanto riguarda per ascoltare la 27, websdr.org. Subito ti mando quello. Questo è dalla Corsica, Calvi, Francia, sotto c'è scritto. Metti sulla Corsica il cerchio, mettilo sulla Corsica, in alto a sinistra, sulla Corsica, centrato, il puntino perché è in alto, a sinistra, quello lì è Radio Calvi. Sì, sì, già ho puntato anche alla Corsica, tutti dite bello, bello, è forte. Invece io sono qua adesso, aspetta. La pagina si chiama WebSDR. Adesso ti mando. Tu scrivi sulla tastiera del computer, scrivi web, ricordati web inizia con la V doppia, web sdr.com e ti appare la pagina e poi lì ti sbizzarrisci, fai scorrere la pagina, fai scorrere e leggi quello che c'è scritto e ti trovi la stazione radio che vuoi tu. Ma io ho scritto .com, non mi dà .org. Websdr.org. .com non c'è. Ma non c'è, te l'ho già messo io, cosa devi dire? Certo, avrei fatto qualche errore. Scrivi di nuovo websdr.com. Ho poco di fare errori, però mi dà websdr.org. Capita, cosa vuoi che ti dica? O Luca, cosa vuoi che ti dica? E prova a far scorrere quella pagina, può essere che vada bene lo stesso, fai scorrere la pagina. Ok, poi mi apre, vediamo un po', aspetta, clicco qua, e mi apre una mappa con tutte le frequenze, vedi, 0, 29, poi... Ecco, adesso tu sulla sinistra c'è un elenco dove ci sono tutti i corrispondenti, sia di radio private che di radio amatori. Tu leggi lentamente uno a uno e cercati ad esempio Roma 4, e apri lì. E ti apre la 27, subito ti appare una pagina con la frequenza 27555, e poi da lì ci sono tutti i pulsantini e tu la frequenza te la regoli come vuoi, no? Sì, ma ve ne so un saccaccio. Ce ne sono tante. Cioè qua c'è 27. Sotto sicuramente. Sì, è sotto, tu falla salire la pagina, falla salire in alto e guarda attentamente, falla scorrere piano, se no ti sfugge. E c'è scritto Roma 4 o 4 Roma, la stessa cosa. E ti fermi lì, ti fermi. E lì ti appare questa radio che ti appare, addirittura con la frequenza già impostata, 27555. E poi da lì l'apri e lo fai funzionare, no? Perché lo senti è muto. Lo apri e senti già il QRM. Poi c'è in basso una freccetta, tu clicchi su ogni linea, spostandola, ogni linea è una frequenza, e te lo sposti alla frequenza che vuoi tu. Quella è la frequenza di chiamata in SSB. Oh, ciao Nathalie, ehi, non solo in SSB, in tutte le maniere, anche in AM, in AM, anche in CW, in FM, tutti ci sono, Nathalie. E comunque a Roma non riesco a trovarlo. Sono partito da giù, sto salendo, non c'è Roma, non so. Se magari ce l'hai già, mi dici a che qual è, a che numero è, cioè, qual è la, non so, la quindicesima, la dodicesima, la decima. Quello non lo so, tu devi leggere la scritta che c'è in piccolino, che mi sembra che sia verde se ricordo bene, e leggi quello lì, e ti fermi su uno di quelli, ti fermi. Però quando tu arrivi alla pagina dove c'è scritto Roma 4 oppure 4 Roma è uguale, e ti fermi lì, clicchi sulla scritta verde, quella piccolina, e ti si apre la pagina di Roma 4, dove ti appare una apparecchiatura con la frequenza già impostata 27555. Ah, ecco, l'ho importato da su, ho messo Europa 10 metri R4 Roma 4 best, quello? Esatto. Adesso a te ti è apparsa la schermata della frequenza, di tutta la frequenza di quella banda. Guarda che c'è scritto banda 10, 11, 20, 20, 40, eccetera, eccetera. Clicca tu sulla banda 10, che appare poi 11 metri appare. Sì, adesso la frequenza è 27524.00. Vabbè, è uguale. Adesso in basso, sulla linea, dove ci sono tutti i numeri, tu leggi tutti i numeri in basso, no? Tutta la frequenza della 27, lì c'è una specie di ponticello. Con il mouse metti su quella punta lì e lo sposti lentamente e ti cerchi la frequenza che vuoi tu. Questa che frequenza è? 10, vediamo. 10 è 27.035. Sì. Non ti sento, prova a parlare. Ehi, vabbè, avanti. Non lo so se mi senti. Io ieri sentivo a Gianni, sentivo a Claudio, io ieri sera stavo ascoltando al computer lì, dopo sono salito su e mi sono preparato lo spessore per l'M300, un microfono che ho adattato al Cobra 139, e poi basta, no? Mi sono stancato. Ma è già da un bel po' di tempo che io ci baso su quelle frequenze, cioè su quell'applicazione. No, non ti sento, 27... 0,75, niente, non ti sento. non so cosa dirti. Evidentemente non l'hai sintonizzato bene, o perlomeno non arrivo, cosa ne so. Devi scrivere web SDR Roma 4 e ti esce subito, immediatamente, quello lì che sta dicendo Giulio. C'è la Francia che stanno chiamando. E così ho fatto a Natalini, sono andato alla radio adesso, allora, voglio mandare alla radio a Giulio anche. Secondo lì volta potevo mandare alla radio. Sono in AM. Però mi sento. Ref again. Ah, ecco il volume. AM, 11 metri. Posso. Aspetta, li faccio sentire. In SSB erano, là se ne sono andati. Ma li senti? Buono, siete per da Borotto. Metti la frequenza, Luca, metti la frequenza 27081. '87 81 82, una cosa del genere, di base che lì vicino. Sì, sento questo qua 9 più 20. Hai visto, hai trovato qualcosa? Tu mi hai mandato allo spettro, infatti su quello spettro guarda che c'è nella lista, ci sono tutte le frequenze. Quando vuoi cambiare frequenza, su quei quadratini che ci sono, schiacci su una frequenza che vuoi, ad esempio 40 metri, schiacci 40 e metti poi LSB e senti altre modulazioni, no? Ogni riga che vedi che si sposta continuamente, quello lì è un segnale che poi ti deve centrare naturalmente, perché è talmente stretto, è sensibile, che basta un nulla che non perdi. Il sistema che state ricevendo si chiama PSK31, ok? Buongiorno. Ciao Claudio. Web SDR .com, la pagina aperta, websdr.com. ieri ti ho sentito io a te, ieri sera io ero al computer, siccome io ci vado sempre ad ascoltare lì, no? Tante volte ascolto anche le radio nazionali, non solamente le radio amatori, e stavo ascoltando, appunto c'eri tu, c'era Gianni, e ho sentito, infatti poi sono salito su, mi ha fatto la spia, adesso salgo, ci sono loro, e dunque è stato così, capito? Sì, ma quello è per quanto riguarda la 27, ed è una cosa. Il nostro sistema tu puoi sentirlo anche nelle bande amatoriali e noi trasmettiamo in PSK31, ok? Sì, ho capito, ma anche lì ci sono tutte le bande radio amatoriali o qua. Tutte ci sono, tutte indistintamente, ma di tutto il mondo praticamente. Solo che quando vuoi vedere in arabo, a me io non capisco l'accidente, allora io mi sto cercando delle stazioni italiane. Poi c'è l'altra, ma Luca, se scorri ancora, c'è Radio Magellano, roba dalla Sicilia, credo che sia. Anche lì ho sentito la 27 tranquillamente, o Luca. Ma qua c'è la 2 metri, aspetta, c'è la, allora, c'è 80 metri, 40 metri, 11 metri, 20 metri, 2 metri e 70 metri. E gli altri, sto dicendo, sono tutte le frequenze. Se tu cambi su quel canale lì, ti metti la freccetta e schiacci su quella, ad esempio 40 metri, appare la frequenza di 40 metri. È così, no? Poi poi, se tu vedi al centro della pagina, ci sono tutte le frequenze, ci sono relative a quella stazione che lavora su quelle frequenze o meno. Mi sono spiegato? Ma però c'è la 27 o non c'è? C'è, no, 27, qua non sento nessuno di Sassari. Vabbè, cosa vuoi dire? Se no, vuol dire che non prende, non lo so. Però c'è la 27. Io ieri sera, te lo sto dicendo, ho sentito Claudio e c'era anche Gianni. Per cui, va bene, dai. Avanti qua. Aspetta giù che sto facendo cose, sto cambiando il colore della lampadina, questo base che non mi piacciono, bianco e bianco. Abbiamo messo i LED celesti che sono molto più belli. Vabbè, comunque lì potete ascoltare tutte le bande amatoriali che voi. 10, 15, non fare in metri, 10, 15, 20, 40, 80 e 60. Ci hanno dato anche i 60, che è poco più sotto dei 3, degli 80 metri. Ok, e poi 50 mega. Va bene, i 6 metri, tutte le puoi ascoltare lì, tutte, dall'A alla Z, tutta Italia, tutto il mondo, tutta l'Europa, ok? Sì, ascolta, dimmi com'è che la sigla che mi hai dato tu? Pierre mi sembra che hai detto, boh, non ripetimela, che me la segno. PSK 31. K31. Ma è in 8 Hz, 12 Hz, 16 Hz, cioè 5, 8, 12, 16 Hz. Sì, ma Giulio, per ascoltare il PSK 31 ci vuole un'interfaccia, non è che lo puoi fare così il PSK 31, e poi ti chiede il nominativo radioamatore anche per ascoltare. Ho capito qua. Va bene, dai, pazienza allora, dai. Avanti l'attenzione. Stavo chiamando l'isola, avanti chi chiama l'isola della Sardegna, cambio. Avanti Austria per l'Italia, buonasera, buongiorno anzi. Avanti l'amico dell'Austria per l'Italia. Ciao amico, buongiorno, ben ascoltato. Coordinate Austria qua, città del Kufstein, direzione Germania qua. Buongiorno amigos, basso. Buongiorno collega, che modo da per te Giulio dalla Sardegna, la città di Sassari, in compagnia di Luca, Claudio in ascolto, Natalino e qualche altro. Avanti, vai Luca per l'amico dell'Austria. Ok, buongiorno l'amico dell'Austria, non so se ascolti Luca qua, coordinate Sassari, nord Sardegna, avanti. Ciao Luca, ciao Giulio, buongiorno ad entrambi tutte e due dalla città di Sassari, da parte vostra, la cosa è bella, capito? Coordinate Kufstein qua, in transito, direzione nord della Germania per trattacco scarico, a Coppa che vi saluta, Ok collega, ti ascolto molto bene, Santiago Alto e anche la radio è perfetta, ultimamente bene. Tu come mi ascolti? Avanti. Attenzione l'amico dell'Austria. Attenzione l'amico dell'Austria, se tu ascolti Luca qua, cambio. Aspetta, dove sto qua? Deve essere. Ho cambiato direzione, ho calata la cosa. Claudio PRK 31 mi hai detto, vero? Me l'ho scritto adesso, se no dopo me lo dimentico. PS, Papa Sierra, PSK 31. Ok, adesso me l'ho scritto così almeno già me lo ricordo, poi ci faccio un tentativo. Attenzione l'amicaccio dell'Austria, se tu ascolti Luca qua, nord Sardegna, cambio. Vuol dire che siete la preparazione. Attenzione collega dell'Austria che ci ascolti ancora l'Italia, Giulio che ti chiama, perché? Io non è australiano, è siciliano, è un camionista, mi ha detto, non so se l'avete sentito, c'è il confine con l'Austria, quindi o sta superando il confine e non può parlare oppure è entrato nella galleria che separa l'Austria dalla Germania. L'ho sentito benissimo, era in Germania che stavo andando in Austria, sì, l'ho sentito benissimo qua. Ascolta, ti mando un link, ti interessa? se io ti mando un link sul telefonino, tu puoi avere tutte le radio del mondo, mi spiego, ti mando questo link, quando tu lo apri ti appare una cartina geografica con tantissimi puntini verdi, ogni puntino equivale ad una radio nel mondo, e dunque c'è un cerchietto, tu il cerchietto lo sposti col dito sul puntino che credi e ti appare una radio funzionante al 100%. Te lo mando? Ma lo puoi anche mandare, Giulia, ma intanto io non ne ascolto, non ne guardo, capito? Quindi è inutile. Non sono un grande appassionato, poi il telefonino mio è già settato con un sacco di cose d'ufficio, di balle, di bovera, quindi magari mi rallenta anche il lavoro, capito? Ti ringrazio, ma non me ne mandare, intanto non lo uso, Giulio. Ah, vabbè, non fa niente, non fa niente. Chi è davanti, Eugenio? Chi era che mi chiamava, avanti? No, non risponde più. Vabbè, dai, andiamo. E allora, Luca, cosa stai combinando adesso? Luca! Mi pare, non ti ripicco balzoso, mi pare, ogni tanto salta e si sposta, boom, boom. E chi si chiama Manicomio? Ah, infatti, il nome appropriato, proprio. Soia, Natali, chi sei? Soia. Ma che non canti, chi vai da voce, canta, canta. Comunque, il PSK31 è in modo digitale, mi giuro. Vabbè, pazienza, se non entro, non entro, pazienza, che non è il problema. Capita. Visto che mi ha dato quella sigla, provo a fare un tentativo e poi vedo un po' cosa succede. Se non ci riesco, pazienza. Avanti, Natalino 8. Sì, ma può ascoltare, Natalino, non è un problema. È chiaro che glielo ho già spiegato, non può usarlo, però può ascoltare. Non ci di... E quindi c'era la musica e non ti sentivo. Ho capito, dai. Ho sentito più tua moglie che a te, mi è andata lì. Va bene, dai. Andiamo. Vediamo se è rientrato Luca. Luca, così. Ma sei brutto guru di malassento, mio Luca, noi stai mai fermo davanti al baracchino, no? Mi pare un telemico balzoso, brincante da un punto all'altro. Arrivo subito un attimo. D'accordo, Luca. Buongiorno, avanti, tutto il giorno. Ventosa, Ciao Giulio. Ciao Claudio, qui non ho capito più niente. Avanti Giulio. Ciao fra. Luca, ma è come il grillo, lui salta sempre da un punto all'altro, ogni tanto lascia la frequenza, poi è già cosa spendi. No, c'è Claudio che ha chiesto quel link, un attimo, c'è Natalino e c'era anche Eugenio, ma Eugenio aveva chiesto quel link per il telefono e non si è più sentito, ma questo è già 20 minuti fa come minimo. E allora fra, vai. Sai cosa è Giulio? Questo Luca lo conosco 3 con le ruote civici, in caso di perdere da una banca all'altra. Ma vai, un telepicco balzoso per barica, brincando come te. A proposito di telepicchi balzosi, nel Nuorese ragazzi, stanno rovinando tutta la cultura, stanno rovinando. Infatti i contadini sono arrabbiatissimi, perché c'è un'invasione di cavallette. Davvero? Infatti, noi sassanesi lo chiamiamo un telepicco balzoso, no? E cioè le cavallette. Mi ricordo alcuni anni fa era successo anche a Sassari un'invasione di cavallette. Da quando passavi con la macchina le schiacciavi a milioni, perché erano tutte per terra, era tappezzata la strada di cavallette. Quelle sono... Non mi ricordo... magari... Non ero neanche nato quando l'invasione proprio vera delle cavallette che hanno distrutto tutto, hanno distrutto il raccolto e via. Eh Infatti rovinano tutto il raccolto, rovinano, beh, lo sappiamo, purtroppo è così, e cosa vuoi fare? Infatti stavano aspettando, hanno chiesto una disinfestazione, hanno chiesto dai comuni del Nuorese lì, ma chissà se funziona, che lo sa, boh. Perché i contadini dice lavoriamo la terra per cosa? Per andare a mangiare le cavallette, perché poi ci distruggono tutto quanto. Infatti è così. Vabbè, ci sono venuti a tutti di non buttare medicina di cui col tempo sulla terra. Indubbiamente bisogna fare attenzione, sì, perché sennò poi è un guaio, certo, e purtroppo anche quelle sono disgrazie per il lavoratore, non basta che il lavoro in campagna è pesantissimo e ci vuole anche questa calamità, chiamiamola naturale, per distruggerti tutto il lavoro che fai in un'annata, boh, non è possibile, ma cos'è? Ma la fine del mondo è rebelli, con tutti quanti che ti godi. Così ieri c'era il terremoto a Roma, anche se grazie a Dio non è successo niente, però intanto una bella scossa si è sentita, del 3,3. Capo, sì, l'ho sentita, tutto quello sta succedendo, è sempre la mano del uomo. Indubbiamente una percentuale di responsabilità sarà anche l'uomo, e questo sicuramente è così, perché sennò non credo che possa essere tutta calamità naturale, ma calamità naturale costruita chissà in quale maniera, sempre dalla mano dell'uomo, purtroppo così è cosa aveva. Pazienza, va bene, vai. Spero che sia accorto che prima le stagioni si sentivano proprio belle, e quando arrivava la primavera si sentiva il profumo della primavera, tutto quanto. Adesso non si sente più niente, adesso non si capisce più quando è primavera, non comprendo più nulla. E queste sono tutte le polveri che hanno fatto, che hanno buttato. Poi sono polveri che hanno provato a fare esperimenti, ma indubbiamente qualche effetto ce l'ha avuto un cambiamento proprio per colpa dell'uomo, con tutti i vari esperimenti e che lo sa, poi loro dicono anche l'effetto serra, ma comunque tutto è possibile, è cosa vuoi che dica. Purtroppo è così e non è che ce la possiamo cambiare, ma io avevo sentito tempo fa un astrologo che diceva, parliamo di cosa? Di stagioni, ma in realtà le stagioni non esistono, dice, in realtà non esistono. Perché? Per il semplice motivo che quando arriva a compiere il giro, non so a cosa intendesse lui, forse il giro della terra, che cosa ne so, arriva in quel punto e accade quello, tipo che so io, per fare un esempio, il temporale, oppure che so io, arriva a quello coso lì e la stagione cambia totalmente anche nella temperatura, di conseguenza magari la campagna eccetera eccetera, anziché avere che so io un frutto nel determinato periodo o mese, ce l'abbiamo più forzato oppure anticipato. Ecco com'è, questo è quello che diciamo a questo astrologo, poi è dell'usato di Realizzetti, boh. Vabbè, tra quelli chimica, o è fatto, vabbè. Bisogna avere lo studio che hanno loro e la loro testa per capire a quelli. Certo, in effetti è così, vengo alla televisione, ecco, così, per tutta salute. Va bene, dai, comunque, cosa vuoi che ti dica, fra? un casino diventato questo mondo, non se ne capisce più niente, tutti i giorni c'è una cosa nuova. Ma adesso, ieri ad esempio a Sassari non c'era nessun contagio, no? Beh, sistematicamente ieri notte la televisione hanno detto per forza non ce ne sono contagi, magari ce ne sono tanti ancora contagiati e quelli che contagiano, però siccome hanno fatto appena 10 tamponi, come fanno a stabilire se ce ne sono o no? Oh, non è possibile, dimmi tu, sei una città come Sassari, devono fare solo 10 tamponi, per forza non li so dei contagi, se non li fai tamponi. Siccome c'è gente contagiata che possiamo essere anche noi, perché chi lo sa, che noi non abbiamo fatto, io non so dire, non ho fatto tampone, può essere anche io contagiato, ma loro non lo sanno, come hai detto tu, che non mi fai tampone. Sono in mezzo tutti imbrugli, tardi sono, io non ho capito perché. Ieri ho visto un video che hanno, messo, adesso non mi ricordo la roba, l'hanno messo da dove hanno sequestrato quella ragazza che poi l'hanno liberata, sì. Di là della cassa integrazione sono andati per liberare questa ragazza, sono gli italiani. Quelli sono dei pagliacci, dei buffoni, ma quando mai è capita una donna che per conto mio io la considero una sovversiva, che se ne va fuori in un mondo islamico e si sposa anche con un islamico e rientra in Italia dopo che l'Italia ha pagato, si dice, 1,5 milioni e qualche giornalista ha scritto anche 4 milioni per il rilascio, e vieni qua con gli abiti islamici, ma non ti innanzi, e la gente imbecille, ragazzi, che la sta acclamando, ne stanno facendo un'eroina di vita brutta, ragazzi. Ma quando mai bisogna essere così imbecilli, che gli italiani, vabbè, ce l'abbiamo scritto sulla fronte, imbecilli, per cui non c'è da meravigliarsi più di niente. Sì, si è convertita all'Islam, si è convertita questa qua, oltre tutto i soldi della gente, dei lavoratori che si ha preso. Allora, i soldi italiani che vanno in mano a questi disgraziati, che poi li usano a comprarsi le armi, perché questi islamici, già lo sappiamo, nel loro DNA non vedono altro che violenza, eccetera, sempre con le armi in mano, anche da bambini di 7-8 anni sono già con il calabisco, come si chiama, col fucile già in mano, nascono già, appena partoriscono e hanno subito il fucile in mano questi bambini, non è possibile, è l'italiano deficiente che va, era un presidente e quell'altro deficiente del ministro degli esteri sono andati a prendersi i meriti, che sono andati a riceverli in aeroporto, ma quando mai, capito? Ma perché non pensa alle cose serie questo presidente, anziché andare a pensare a tutti gli altri tipi di cose, di giabbi e di macchini che fa della gente, che quando se ne andate nel mondo islamico, adesso vanno addestrate, capace che ci fa, prima o poi si organizza anche qualche attentato in Italia. Un tempo fa regalavano il baracchino, il padre e la madre regalavano, no? Invece a loro quando fanno compleanno gli regalano un mitra. Allora, in quel paese è così, quelli nascono, la donna quando partorisce ha già il mitra sul letto, pronto per regalarlo al bambino che nasce. Bella vagogna, che schifo, se avete pensato a dare un po' di soldi agli artigiani, ai commercianti che hanno chiuso per 3 mesi e non hanno lavorato, grazie, sa, invece di buttare soldi così per pagare il riscatto di una sovversiva, perché per me quella è una sovversiva, una che se ne va dal tuo paese con la scusa che deve fare volontariato e poi lì incontra un disgraziato e si sposa, chissà cos'è, chissà, è una fuori di mente, non è possibile che possa essere strano di mente, no, assolutamente. giustamente, guarda. Io intanto non la potrei fatta rientrare qua in Italia, ma non se ne va uno di là, non tengo i soldi degli italiani, della povera gente italiana, per pagare il riscatto anche la brutta strada. E poi si è convertita lei stessa all'Islam, quindi è islamica, la più da casa, morì in Kiwi. E io non credo, si sta dicendo che qui, intanto se diventa qua, prego ti arresto subito, altro che pagare il riscatto, e poi ti arresto. Per quale motivo tu te ne sei andata dall'Italia e hai fatto quello che hai fatto, volontariato? Ma quale volontariato? Lui si è posto d'accordo con il popolo islamico, con chi si deve delinquente, con quegli assassini, perché sono assassini. Dice adesso spulciamo un pochino di soldi all'Italia, alla Uzu, l'accusa la Uzu, e non per niente lei si è sposato anche un islamico, si è sposato, e dunque un fuori di gabbo, un delinquente. Da pure islamica, si è convertita all'Islam, quindi islamica pure lei, la mia ragazza Grebani Kiwi. E infatti no, la mia Grebani è io, la vecchia Grebani è io, c'era tornata in Italia con i suoi mesi, la mia Grebani è io, invece no, l'Italia ha pagato addirittura per far rientrare questa disgraziata, una cosa incredibile, che vergogna. Adesso lo stanno facendo un'eroina, lo stanno facendo, ne parlano tutti i giornali, tutti l'acclamano. Ieri c'erano 200 poliziotti attorno a lì per proteggerla, perché la gente andava acclamandola. Boh, non è possibile, per grazia di mentalità e contorto che ha l'italiano, è una vergogna veramente. Vai fra. Ecco, con Natalino, non lo senti a Natalino? No. Ciao Natalino, non so se mi sente lì, dai, se non lo saluto. No, non lo sento, è in mezzo a questo corremme, sono molto alto. Ah, Natalino 8. Puglia. Ok, te lo senti a Franco di Sorso? A Franco di Sorso, io lo sentivo sempre. Franco, mi senti? No, non ti sento, no, infatti mi ha chiesto con che stavo parlando. Non ti sente, dice che è un QR. Io Natalia Franco non lo sento. Ma ne vuoi sul abortante? Vabbè, se ne entrano i dolci, io devo andare a mattessimi, io no, non è che mi... Anzi, se vuoi, continuo così almeno, se non l'hai fatto, di se ne travano i dolci, e va sempre bene, che problemi ci sono, figurati. Dai, su ben su io, va. Vai, fra. Ehi, cazzo, la Claudio mi ha fatto, Claudio. Sta lavorando Claudio, finito hai di lavorare. Ragazzi, ma c'è buffetti? No, le buffetti no, a meno che non le buffetti, è un buco, ma la graviglia, ma non buffetti inteso come bene, no, non credo, al massimo si sta prendendo un caffè e basta, perché se no poi a pranzo, ui, no, se basta la gara di magnate e comincia a bere qualcosa adesso. Vabbè. Non penso che tu va giù, quindi è in casa giuria, non penso, a meno che non vado mal messo in terrazza. In terrazza se vuoi, però da no. Che è a chi io non vedo in terrazza lo barbecue. Cade sopra in vena di fumo, salgo in terrazza, accendo il carbone e metto il salsiccione, le bistecche, le braccione, tutte queste cose qua. E da voi se rimaniamo e non gli diamo un cane, no, che cane non ha giù io. Allora, mi sentite sì o no? E certo, se ti stiamo anche chiamando. Ah? Ti stiamo anche chiamando. Perché stai uscendo così basso basso? Siete sul gasino, non lo so. E di tomare un chilo, vai. Va bene, dai. Sì, va bene, 9.05 quasi, o qua, sapete vado. A Franco, lo senti, Claudio? Attacco l'Italia per la stazione francese. Poi c'è un casino di propagazione, fa, no? E alle volte gli subano. nostra Francia. Guarda Giulio, se spinge di più la radio adesso. No, io ti sento sempre allo stesso modo, Natali, perché c'è propagazione e dunque quello influisce molto, Ho capito, no, perché ho messo le MB più 4, a vedere se spinge un po' di più. No, ma la radio già è buona, solo che è bassa, però già è buona. Ma è bassa molto probabilmente, più del solito, perché c'è l'interferenza della propagazione, sarà per quello Natali. Va bene, dai, vediamo Franco se è rientrato. Franco? Capo, no, sono andato nella tua parte, sono qua. Stiamo provando con le PSK, ma se vuole cosa vogliamo a tutti. Claudio, sei uscito adesso, Claudio. Sì, sì, ma l'ha detto Claudio, poc'anzi l'ha detto Claudio. Non so se stavi ascoltando quello che ho detto io poc'anzi. Web sdr.com, quello l'hai sentito quando stavo dicendo a Luca o fa? No, negativo, non c'ero allora. Ah, ok, va bene. No, è un sito dove appunto si ascoltano di tutto, tra gli amatori, anche la 27, un po' tutto. Però oggi dice che non sentiva Luca, cosa ne so, io ieri sera ho sentito Claudio, c'era anche Gianni, quando erano in questione, ieri sera al computer l'ho aperto col sito. Avanti Clark, poco fa non sei uscito. Avanti, è uscito con la trombetta, avanti, il segnale è aumentato, ma si è con la trombetta. Cos'è strano? No, vabbè, c'ho la torre di accesso. Ho capito. Ma c'è il soldato che sto provando. Il microfono? Hai detto. Allora, vi ascolto nel 10 e io sto trasmettendo nel 9. Con lo split che stai trasmettendo? Ma lo c'è già qui, adesso la torno a briga per la situazione. Vabbè, dai, ho sempre avvisato, l'elettronica è tremenda, quando si impunta gli dà ragione. Vai Franco. Vabbè. Qual è? Quella radio vintage è quella? E allora, radio vintage. No, ho comprato stamattina, aspetta i contatti, perché lo volevo fare già da prima. Ho tutta spruzzata, pulita, tutti qua, ti ho rimessi tutto a posto. Ci ho sbagliato buone di H4, adesso li controllo a breve. Rimango qua in quell'X-Club che vi sto ascoltando. Sicuramente hai sbagliato qualche quarta, allora dai, sei acquartata, perché quando avevo faccio nel 2030 io come spostavo un quarto mi facevo la stessa cosa. Sicuramente ho fatto un casino, con la fretta di chiudere. Dai, un'ora va, 20-20 va, ma in mamma ragazzi, tutto vidi che c'è radio. Allora è un'ora ancora a togliere il coperchio, ma porca miseria. È una radio per pensionati, dunque è il numero delle viti, non contano, non ha importanza, deve venire il medio è, certo pensionato un po' con il tempo del remascio, no, da voi del travaglio. Penso proprio di sì, ma non ho c'è la gana, anche perché pesami, e lo devo mettere per terra, figurati, dove l'appoggio. Capito? L'avevo tutta bene, adesso la di nuovo aprirla con la lente, controllare se i quarti sono giusti, se sono accoppiati o ho sbagliato qualcosa. Va bene, dai, vi ascolto, sono qua. No, le faccia a vista, se non avevo dimenticato, devo prendere un applicatore e fai più veloce. Sono viti molto. Se le sgrano poi sono brutte da vedere, col cacciavite piano piano, sai come fa quello a batteria, no? Magari sgrana e me le rovina, sono viti nere comprate apposta per quella radio, no? Piano piano, poi non mangio un braccio, beh, vi ascolto, sono qua. Va bene, avanti. Io che tra, e quando ce l'avevo io, praticamente la stessa radio, però parlando degli inuiti, gli cambiavo i quarti, gli cambiavo, qualcuno penso di averne ancora, non so dove sono, ma niente, io me ne andavo anche sul canale alto, canale 40, 45, canali così, in quegli anni, perché l'apparecchio essendo a 23 canali, allora ogni tanto compravo un quarto, compravo e lo scambiavo, e in quegli anni lì, candelami un po' candelabili, più piccinini a riguardo di quello, sempre con le mani, con un daffo di una mattina abito, cambiando quarti, non facendo altro, no, solo cambiando quarti. Ah, e tu lo stesso Franco facevi così? No, io ci avevo, faccio 2030, 23 canali ci avevo. E uno mi ha detto, diciamo, un interruttore, mi ha detto, dice, ah, porta la 40, e allora te lo butto a 40. E se lo do io un quarto, e mi lo inserisci lì. E ho provato e poi mi è diventato 40 canali. Sì, beh certo, beh, è chiaro, se ti sto dicendo io li compravo, i quarti li compravo, perché allora in quegli anni c'era talmente affollamento in frequenza che era un casino, era, soprattutto quando cominciava che sono Paoletto, che saliva sempre gira da un canale all'altro, facendo un chiasso, poi c'era un altro tipo, uno che mi ricordo bene, faceva l'arbitro di calcio, faceva, e a quello addirittura quando attaccava, altro che Paoletto Ila, oh, tu pensa che noi parlavamo nel canale che c'era lui, quando parlava lui ci spostavamo in un altro canale e facevamo questo da poi di un quarto d'ora, ma non sto scherzando, anche più di un quarto d'ora ritornavamo in quel canale e lui stava sempre parlando, sempre del solito argomento. Era una cosa impressionante questo Cristiano, non mi ricordo come si chiamasse. A Mario Pesco, Mario Pesco la socio di Bonià, un quarto d'ora a Bassarudà, ma solo Bassarudà, giungano i più cordiali saluti a te, a tua sorella, a tua nonna, a tua mamma, senti un quarto d'ora c'ero dandy, allora poi quando cominciavo a fare età mi voglio un altro quarto d'ora, e Giuseppino Trattore, poverino, lo pigliava a Bosi. No, io quando mi sentivo mi pigliavo un canale, se non abbiamo un altro canale, vero mi? Salute mia mi. Cazzo me ricordo, guarda, la cionfa c'era sorso che. Conosciuto lei a Persico, a Mario Persico, quello di sorso. O oh, Lu Giulio. Questa però, di persona no. Ehi, io lo so, no, io l'ho conosciuto anche in persona. Abitava lì via Sassari, no? Quella via lì, dove c'è Spano, quella zona lì abitava. Mi sembra che abitava quella zona lì, sì, abitava. Sì, ce n'erano una, due, tre, quattro o cinque di antenne ce n'erano lì. Registrato il break, ve ne è ancora una, ve ne è ancora una, non so chi sia. Avanti break, io rimango in quel rischio che sto ancora togliendo le viti, avanti break. Grazie, buongiorno ragazzi, vedo che stavate chiacchierando, chi lavorerebbe chi di qua. Luca, provincia di Lecco, Alta Valsassina, per avervi fatto entrare a voi. Buongiorno Luca, ben ascoltato, Claudio Sparviero della città di Sassari, 659, complimenti, arrivi fortissimo qua a Sassari. Ok, ti passo Giulio per i saluti, io rimango un attimo in Quarix perché sto aprendo un vintage che ho sbagliato a mettere i quarti Luca, e quindi lo devo rimettere a posto. Avanti Giulio per Luca. Ok, con piacere saluto l'amico Luca, credo di aver capito così il nome nativo, poi casomai me lo confermerai. Giulio da Sassari, sempre nella stessa città di Claudio Sparviero, in compagnia anche di Franco, in un paese vicino a Sassari, che io ti mando avanti. Dopodiché ci saluterai entrambi così, tutto a un colpo, così almeno non perdiamo tempo. Avanti Franco, per l'amico Luca. Capo, buongiorno Luca, ben ascoltato, salutoni. Franco Lasorto qua in provincia di Sassari, da pochi KM da Sassari. Avanti a te Luca. Eccomi, grazie, saluto Giulio, saluto Sparviero. 9, 9, 5 tutti e tre, uno dietro all'altro, precisi. Qui in mezzo alle mie montagne, dai. Grazie ragazzi per il contatto, vi lascio fare il vostro quesito locale. Grazie di avermi fatto entrare, buona giornata a tutti e tre, Io rimetterei a Giulio, visto che lo Sparviero sta lavorando. Attenzione, ascoltate la città. un attimo un amico che chiama Sassari, che salutiamo Luca, grazie a te Luca, salutoni, hai cambiato il QRK, anche per te nella mia stazione, Santiago 9, Radio 5, alla grande, naturalmente con un po' di QSB, ma questo è normalissimo in quanto alla propagazione. Avanti Franco per salutare Luca e dopodiché fai entrare Black che chiama Sassari, vai Franco. Sì Luca, anche per me qua sei un segnale di 9 e una bella radio di 5. Comunque, ciao Luca, ben ascoltato, mi ha fatto piacere. Avanti Beck. Sì, 73, stazione Gerri, operatore Federico, Treviglio, provincia di Bergamo, a te il cambio Franco. Cappa Federico, buongiorno, ben ascoltato. In compagnia qua di Giulio e di Claudio Spalviero che è in QRI, un attimino. E per te un segnale di 9 e Radio 5. Avanti per salutarlo Giulio. Ok, ciao Federico, salutoni, Giulio Dollaro da Sassari, 10-15 km km, distante da dove Franco. Ok, salutoni, ben ascoltato, te lo posso dire perché mi arrivi con un segnale molto alto, quasi 9-10 e la radio è 5, proprio bella, prepotente, e sono contento di ascoltarti molto, molto chiaramente. Ok, vediamo un po' se Claudio rientra, così si può salutare anche lui. Avanti Claudio per Federico. Non so se mi sente così, vedete un po' se, perché sono col baracchino, mi senti Federico? Segnale 9, radio 5, stereo, te Claudio, ti ascolto bene. Ah, benissimo, benissimo, posso anche agganciare, sono con circa 7-8 watt. Ok, sto andando col DAC, avevo invertito il quarto dalla ricezione alla trasmissione, adesso sono sul canale 10. Ciao Federico, buongiorno, 5-9 anche per te qua a Sassari, Sì, riprendo io, dai, anch'io ascolto quasi tutti oltre il 9, 9-10, radio 5 stereo, e con un po' di QSB, perché probabilmente la propagazione va e viene, però qui a Treviglio, a 30 km da Bergamo, 30 da Milano, vi ascolto benissimo, dai, le mie condizioni comunque sono... Sto utilizzando un ricetrasmettitore RC2090, nonché Ranger, lo chiamavano Ranger, più o meno 200 watt di potenza e un'antenna direttiva, un'antenna Yagi a 4 elementi, tutto qui. Vai Franco, te cambio. Ehi capo Federico, sì, arrivi bene anche tu qua, superi leggermente il 9 e radio è super 5, bellissima. Sì, anche io uso qua come radio è un President Lincoln e una Mantova Turbo come antenna, ok? E nient'altro, è tutto qua. Avanti Giulio. Ok, Federico. No, io invece sto trasmettendo con un Superstar 360 FM e con l'antenna autocostruita tipo Game Master, canna la pezza in altre parole, per cui spero che tu riesca ad ascoltarmi bene. Avanti ancora Federico, se hai ascoltato Giulio da Sassari, vai. Certo, ti ho ascoltato con problema di sovramodulazione. Qualcuno che chiama, mi sembra un'opzione con un 365, un attimo di piatto, e c'è un QSO. E niente, no, vi ascolto tutti bene, complimenti. La propagazione da oggi. Dopo il prossimo passaggio mi direte com'è il tempo di voi. Qui ieri tutto il giorno acqua, oggi è abbastanza freschino. Cioè, non sembra uscire il sole ora in questo istante, però più o meno 17-18 gradi, a differenza degli altri giorni che si andava oltre 25-26 gradi, piovuto, stanca. Io rilancio, adesso non mi ricordo il nome, rilancio a Franco, poi a sua volta a chi di dovere, questo. Cappa Federico, qua il tempo è buono, solo che c'è un po' di vento. Io qua ho la porta aperta del terrazzo e c'è il sole, però c'è molto vento stamattina. Avanti Claudio. Sì, K, molto bene, ok, ho agganciato adesso Federico, sto andando con un DAC degli anni 70, è un ibrido praticamente, stadio finale a valvole, il resto è tutto transistorizzato, i watt sono circa una cinquantina, perché c'è un linearetto appunto all'interno, e adesso l'ho collegato, insomma l'ho acceso, ecco, così non mi perdi, perché andavo con 8 watt e quindi magari mi perdevi. Molto bene, poi mi dite se è tutto a posto, se la posso chiudere sto barrasone, che mi sono già stufato.